Ascoltiamo ora la registrazione della diretta radio di domenica 10 luglio 2005 con i compagni e le compagne di ritorno dal G8 in Scozia. Cominciamo adesso con la diretta dagli studi di Progetto Radio, una radio che ha cominciato a funzionare in questi ultimi mesi e che ha seguito le attività dei compagni e delle compagne in Scozia per il G8. Quindi adesso abbiamo qua i compagni e le compagne del vascello indiano, del vascello Molino, che si era spostato in Scozia per seguire la mobilitazione. Come è stato il vostro ritorno a Londra e poi in Ticino? In questa terra dove la notte inizia tardi, la mattina inizia presto, dove la notte non è mai buia. È un'esperienza di militanza per la maggior parte fuori dal contesto urbano, da almeno dove si sono svolte le azioni più intense, era fuori dal contesto urbano, in aperta campagna. E tutto è partito da un grande campeggio organizzato ed estremamente organizzato. La cosa che mi ha colpito di più di questo posto sono i colori, appunto il blu del cielo, che è blu anche di notte, il verde dei prati e il giallo fosforescente delle casacche degli sbirri, che al nostro arrivo sia in Inghilterra che più su sono stati una presenza costante in ogni momento, una presenza direi ossessiva, che usa le telecamere e le immagini come se fossero armi, si permette di filmare la salita e la discesa di un treno, si permette di filmare fuori dall'Indy Center, si permette di filmare dentro l'università, si permette di filmare in mezzo alla manifestazione con una squadra speciale che si chiama Snet Squad, sono del Snet, appunto prendere, pigliare, e sono quelli che ti filmano e filmano tutto e dopo cercano di mettere assieme l'immagine e risalire i responsabili dell'azione. E oltre a questi c'erano sbirri di tutte le razze, a cavallo, col casco da bob in antisommossa, da città, di quartiere, che cercano di gestire l'ordine senza permettere che la situazione degenerasse, senza dover essere costretti a gestire una gestione di caos, ma cercavano di contenere le masse a uno stato cioè da renderle inoffensive prima che scoppiassero i disordini. Questa cosa qui ci ha parecchio colpito, perché c'è una sorta di etica tra la polizia e i manifestanti, soprattutto i manifestanti del luogo, quelli inglesi e scozzesi, dove c'è una sorta di quasi di rispetto tra polizia e appunto chi sta dall'altra parte. E questo probabilmente è il maggior punto di forza della polizia, perché si presenta davanti alle folle completamente scoperta, solo munita di manganello, senza lacrimogeni, senza casco, e riesce a controllare in questo modo le masse. Questo appunto perché questo rispetto che sta dentro i singoli lì è come un anticorpo che hanno nei loro confronti, e questo si è visto benissimo quando questa gente si è trovata di fronte manifestanti provenienti da altre nazioni che hanno un altro approccio a quegli sbirri ed erano determinati, e hanno perso subito il controllo della situazione. E torniamo alla diretta per continuare la riflessione sul gli attentati di Londra e la posizione del movimento. Secondo me il legame a quello che diceva prima la persona che stava parlando, credo che appunto ha creato anche comunque una certa indecisione, cioè più che indecisione, cioè appunto una riflessione, diciamo, all'interno anche dell'assemblea. Dopo che è stata annunciata questa notizia, appunto al campeggio c'è stata una grande assemblea molto partecipata, in cui comunque si delineavano anche delle posizioni chiare, diciamo, di chi propendeva per una solidarietà e dei gesti, per esempio il minuto di silenzio per le vittime, e quindi condannava essenzialmente l'atto terroristico e diciamo era solidale con le vittime, no? Mentre chi rifletteva più sul fatto che non si possa essere solidali con le vittime, diciamo, europee, e non prendere una posizione sulle vittime che quotidianamente ci sono in altre parti del mondo. E appunto c'era questa riflessione un po' sull'eurocentrismo, anche per il fatto che sul treno di ritorno, tra l'altro, c'era uno striscione con su Londra, Fallujah, no more bombs, no? E qualcuno aveva detto: no, forse è meglio scrivere Fallujah, London, no more bombs, cioè, ossia proprio questa potenza che hanno, cioè comunque degli eventi mediatici di questo tipo e su dei temi come il terrorismo, che riescono a confondere, diciamo, anche chi nel movimento ha una posizione critica, ossia confondere nel senso che non si riesce più bene a distinguere quello che veramente è, diciamo, la vita umana, cioè in quanto, cioè se la consideriamo appunto come vita umana di tutto il pianeta, cioè che comunque è minacciata quotidianamente, soprattutto nei paesi colpiti, diciamo i paesi non civilizzati, come li chiama il G8. Infatti c'è una dichiarazione comunque di Blair e del G8 che è stata fatta su tutti i giornali, perché potrebbe essere completamente ribaltata esattamente all'opposto. Cioè, diciamo che loro dicono: noi siamo quelli che difendiamo la vita umana e ci opponiamo a questi atti barbarici di terrorismo, quando in realtà sono loro a crearle, e anzi sono loro a mettere in pericolo la vita umana. Quindi, diciamo, questa controversia, questa, cioè, confusione che può creare un atto di questo genere, diciamo che è stata anche la rifletteva anche la discussione di quel momento tra le diverse componenti dell'assemblea che c'era. Infatti, non è che si è presa veramente una decisione di comune accordo, se non quella di fare un comunicato in cui si condannava questo atto, e però si ribadiva che il terrorismo è fatto anche da questi otto grandi, no? Torniamo a parlare di G8, questa volta per sapere che ripercussioni hanno avuto gli attentati di Londra sull'ambiente fra gli attivisti presenti in Scozia e sulla mobilitazione stessa. È stata una cosa molto, molto strana, vissuta molto intensamente, in quanto abbiamo saputo gli attentati il giorno dopo la giornata di grandi azioni e di blocchi che c'è stata, ed era stato già un giorno abbastanza teso, abbastanza pesante, con tutti questi blocchi, con una quantità di poliziotti impressionante da tutte le parti, e quindi con la consapevolezza di essere riusciti quel giorno a mettere in crisi tutto l'apparato di sicurezza che c'è stato in questi giorni in Scozia, ma di essere anche consapevoli col fatto di aspettarci una dura repressione. Quindi già la sera siamo andati a dormire sfiniti dopo appunto la giornata di blocchi al campeggio, con la paura e un po' il timore che durante la notte ci potesse essere una retata o comunque un intervento di forza da parte della polizia. E già questo ci ha fatto pensare la situazione del campeggio era abbastanza tesa, c'era un certo nervosismo, non si sapeva, si sono predisposti dei gruppi di lavoro che si occupavano anche della sicurezza e quindi di gestire un attimino un eventuale tentativo di entrata da parte degli sbirri. E puntualmente, dopo l'elicottero che è volato tutta la notte sopra le nostre teste, puntualmente alle 4 di mattina, arriva alle 3 di mattina, arriva l'allarme, sono arrivati un sacco di poliziotti antisommossa con i cani, e vorrebbero entrare e sgomberare il campeggio. Quindi si è mosso, tutta la gente si è mossa, c'è stata una reazione molto pronta delle non so quante persone, ma sicuramente 2000 persone che c'erano nel campeggio in quel momento, e alla fine i poliziotti non sono entrati e si presume che abbiano voluto fare un po' questa tattica per non ritrovarsi nella situazione della mattina prima, in quanto si sono fatti trovare molto impreparati dall'uscita alle 3 dei tre blocchi che andavano a bloccare appunto l'autostrada. E questo, quindi, sono trovati un sacco di poliziotti per impedire l'uscita dal campeggio di manifestanti o qualunque persona di noi volesse andare a fare degli altri blocchi. Da dire che in quel giorno era in programma appunto anche lì un'uscita abbastanza presto, verso le 6 di mattina, per andare a bloccare l'uscita dei delegati americani che si trovavano in un albergo a circa 40 km da lì. Era un'azione che probabilmente avrebbe potuto avere anche un buon effetto, perché l'hotel dei delegati americani era stato tenuto nascosto fino a poco tempo prima, si è riuscito a scoprirlo e appunto c'era una buona quantità di persone che erano intenzionate a fare questo. Chiaramente la disposizione di polizia non l'ha permesso, perché l'uscita avrebbe comportato degli scontri anche abbastanza duri. Siamo tornati a dormire e alle 8 di mattina, alle 8 e mezza ci svegliamo con la notizia, con la BBC appunto che urla dell'attentato londinese, e quindi dei morti, delle bombe. E questo chiaramente ha messo un po' in crisi tutti, perché già era il giovedì, ci si trovava in un attimino di non sapere bene come muoverci neanche noi, di cosa poter fare, e chiaramente una bomba del genere, con le conseguenti dichiarazioni da parte di alcuni ministri, sono stati sicuramente gli anarchici, ancora una volta il G8, i protestanti no global hanno creato una situazione di tensione. Ha creato un po' di scompiglio anche all'interno del campeggio, quindi discussioni, assemblee, un attentato durissimo, però un attentato che non so, è probabilmente la conseguenza della guerra in corso adesso, la conseguenza delle bombe al mercato di Fallujah, di tutta la situazione che sta avvenendo in questo momento in Iraq, e non solo in Iraq ma nel mondo. E quindi alla fine si è optato per una specie di comunicato, di uscire con un comunicato che condannasse sì le bombe, giustamente, ma che condannasse soprattutto o desse la responsabilità di quanto avvenuto a questi 8 personaggi che si trovavano in questo hotel lussuosissimo al nord della Scozia, per decidere ancora una volta e pianificare le prossime guerre e la prossima gestione della società globale. E quindi sì, sono stati momenti appunto di discussione, sicuramente ancora tutt'oggi ci portiamo dietro la conseguenza delle bombe, l'attenzione pubblica e dei media improvvisamente si è spostata dalla protesta e da quello che era tutto il G8 alle bombe, al terrorismo, quasi come fosse una cosa, mi azzardo a dire, voluta. E da quel momento lì in Inghilterra il G8 non è più esistito in quanto hanno fatto in quanto comunicato che gli 8 grandi hanno fatto in sostegno delle vittime, ma non è più esistito in quanto protesta, in quanto decisioni, altre decisioni da prendere che non siano quelle della lotta unitaria contro il terrorismo, che li ha trovati tutti d'accordo, ma le altre tematiche che erano in programma in quei giorni al G8 sono state improvvisamente cancellate e quasi non c'è più, sì, magari l'aiuto un po' più cospicuo all'Africa, ma grandi decisioni non ci sono più state. Una considerazione a caldo, sempre inerenti alle forze dell'ordine, mi dico, sarebbe bello organizzare un fronte di liberazione degli animali usati dagli sbirri in Scozia, perché tra cavalli e cani veramente è una cosa abbastanza impressionante. A Gleneagles comunque mercoledì la giornata dei blocchi, è stata secondo me molto bella, anche se non c'era un coordinamento principale, era tutto organizzato secondo gruppi di affinità che hanno lavorato chi più e chi meno per riuscire a bloccare le varie vie di accesso a Glen Eagles, e la sera sono stati fatti vedere i filmati della giornata e secondo me comunque abbiamo avuto un bel impatto, perché tra blocchi comunque di strade, chi più a sud, chi più vicino a Glen Eagles e chi comunque con la manifestazione, la marcia verso l'hotel dove si incontrava il G8, siamo riusciti a fare comunque della pressione. C'è chi è riuscito a occupare comunque il centro dei media lì a Glen Eagles. Il confronto con la polizia, così, secondo me, ho visto dei metodi molto così divertenti, ironici, e si era anche mischiati, non è che c'erano blocchi divisi, appunto, violenza non violenza, si era tutti assieme e se la manifestazione che ho visto io, la marcia, sono riusciti a arrivare tutti assieme, hanno tirato giù i fence, che sono queste griglie di protezione, c'era chi prendeva per il culo gli sbirri, c'è stato un tipo molto bello durante un filmato che diceva: va bene, adesso siamo tutti qua e dobbiamo soltanto andare all'hotel, per cui è semplice, diciamo che vogliamo andare all'hotel. Era lì: scusa, devo andare all'hotel. E gli sbirri che lo trussavano così, e tutti dicevano: ma no, ma dai, andiamo all'hotel. E nel senso, era molto carino, ci sono stati veramente. Sono riusciti comunque a ridicolizzare questo. Ancora una volta mega apparato repressivo e questa paranoia comunque che sentono, e che questa non legittimizzazione che hanno. E ci avviamo alla conclusione della diretta con le persone di ritorno dalla Scozia. Com'è stato quindi la fase conclusiva della mobilitazione del G8 e il ritorno? Niente, dal campeggio di Stirling ci siamo poi avviati verso Glasgow, dove c'è stato questo ultimo blocco al ponte nell'ambito di un'iniziativa globale contro i cambi climatici e per rispetto di un'altra interpretazione di consumo e di, quindi, di inquinamento anche. Quindi c'è stato questo blocco di un ponte all'interno della città di Glasgow. Vorrebbero costruire un'autostrada che collega le due parti di Glasgow, chiaramente anche qua coinvolgendo un grande danno ambientale. Si è bloccato il ponte e si sono fatte delle cose lì, anche lì c'è stato un attimino di tensioni con i poliziotti che sono intervenuti, c'è stato anche un certo tipo di provocazione, ci sono stati quasi 10 arresti e niente, però anche da lì siamo riusciti comunque a uscirne bene e ci siamo diretti poi in serata verso il centro di convergenza di Glasgow. Il centro di convergenza di Glasgow era una grandissima fabbrica abbandonata, molto industriale, dove si sono create delle situazioni molto interessanti, nel senso che c'erano comunque tra le 500 e le 1000 persone che erano lì a dormire, quelle persone creano delle attività, si è creata un'energia con diversi spazi e diverse cose che durante tutta la serata e durante tutta la nottata sono andate avanti. E quindi è stato appunto anche lì un luogo autonomo, un luogo di autogestione completa, dove si serviva da mangiare, dove la gente dormiva, dove la gente aveva la possibilità di andare in internet, dove c'erano degli atelier. Da lì la mattina dopo ci siamo svegliati, siamo partiti per Edimburgo, da dove abbiamo preso il treno per tornare a Londra. Il treno per tornare a Londra era anche questa volta abbastanza pieno, c'erano tutti i militanti, tutti gli attivisti stavano, tornavano quindi nei rispettivi luoghi. E da Londra ci siamo avviati a visitare, o comunque a vedere un'altra esperienza, e siamo entrati in una chiesa occupata da un gruppo di persone e anche lì stavano preparando dei volantini, dei manifesti, degli striscioni per una probabile campagna che staranno portando avanti per le Olimpiadi di Londra, che anche queste causeranno alcuni scompensi alla città. Anche questa è stata un'esperienza molto bella, un luogo comunque di autogestione piena, dove si un laboratorio di idee, un posto che è una chiesa recuperato e quindi al quale stanno creando nuova vita. E poi da lì ci siamo diretti verso l'aeroporto, dove siamo tornati infine verso la Svizzera, arrivando questa mattina. E per concludere questo filo conduttore che ci ha portato in questi 12 giorni da situazioni molto, molto diverse tra di loro, ma sempre con un legame costante, quindi col tentativo di occupare il campeggio la prima notte all'arrivo a Edimburgo, addirittura con il pernottamento di una notte nello squad di Londra la sera prima, con gli sbirri costantemente fuori ad aspettarci e a filmarci, a perquisire. Appunto, poi questo tentativo di occupazione del campeggio, il passaggio al campeggio ufficiale, anche questo costantemente controllato con le telecamere, con il dispositivo di sicurezza, fino ai posti, a queste carnevali di strada di Edimburgo con situazioni di musica e di feste anche abbastanza selvagge nelle strade, fino al campeggio di Stirling, dove una quantità incredibile di persone si è trovata, ha parlato, ha discusso, si è trovata in assemblea. In questo campeggio c'erano, non lo so, 5-6 cucine funzionanti, funzionava a modello di bario, in completa autogestione. Queste cucine fornivano pasti per più di 2000 persone al giorno. C'era comunque un movimento costante, una discussione costante, quindi un laboratorio veramente incredibile di un altro mondo possibile. E appunto questo filo conduttore è continuato con questi posti occupati a Glasgow, ancora a Edimburgo, a Londra, per tornare poi qua, comunque in Svizzera, e ritornare in un posto come questo, al Molino, alla radio, dove è la conclusione di questo filo conduttore, dal quale poi probabilmente potrà rinascere qualcosa. È la fine, ma può essere appunto anche un nuovo inizio di una nuova esperienza. E quindi è una situazione, un'esperienza piena, quella che ti porta a vivere un contatto con persone da tutto il mondo, perché questo sono le persone che abbiamo trovate, persone da ogni angolo del mondo che venivano a manifestare e con le quali ci si riusciva a trovare in una condivisione totale e completa, per poi ritornare qua e riportare avanti questo discorso e ricreare nuove situazioni di lotta e di denuncia verso quello che succede all'esterno.